774 Zorama. Se vi piacesse di fare un pezzo in gelo marmorizzato di bianco e nero, eccovi la maniera. Primieramente mettete in molle nell'acqua fresca 3 fogli di colla di pesce e frattanto preparate una crema con zucchero grammi 100, cioccolata in polvere grammi 80, rossi d'uovo numero 3, latte decilitri 3, ghiaccia che sia, uniteci le 3 chiare montate e dopo grammi 150 di panna montata, come quella che preparano i lattai, mescolando in modo che il bianco di questa apparisca sparso qua e là. Poi sciogliete al fuoco in un gocciolo d'acqua i detti 3 fogli di colla di pesce. E questo liquido così caldo spargetelo sul composto mescolando. Indi versatelo nello stampo da gelati o in altro vaso bagnato di rosolio e chiuso ermeticamente, tenendolo per 3 o 4 ore, contornato e coperto con molto ghiaccio frammisto a sale. Può bastare per 8 persone. 775 Caffè latte gelato. Nei grandi calori estivi si può gustar con piacere un caffè con latte condensato a granita nelle proporzioni seguenti. Latte 1 litro, caffè 0,5 litro, zucchero grammi 300 che messo nel latte potete sciogliere al fuoco. Versate il composto nella sorbettiera, come per i gelati in genere, e servitelo quando sarà assodato in tazze o bicchierini.